Linee d'ombra di Matteo Caccia. Non ce lo siamo spiegati mai, è come se all'improvviso avessimo fatto un viaggio, che ne so, e poi ci troviamo a lei. Una cosa stranissima, guarda. Ci siamo svegliati alle prime luci dell'alba all'interno di casa mia, vestiti e senza ricordare minimamente quando e come avevamo fatto a spostarci da quell'altro luogo. Storie di teletrasporto e di saloon che non esistono, in una puntata che si intitola Strane Storie. Signore e signori, buonasera. Benvenuti alle scommesse da $2 sulle corse di un quarto di miglio. Le corse dei cavalli sono lo sport dei re, ma qui agli sportelli da $2 non ho visto passare nemmeno un duca. Evidentemente si saranno camuffati bene. A proposito di corse, mi sembra che stia per cominciare la prima. La bandierina. Chi di voi volesse scommettere può ancora farlo. Io non dovrei darvi nessuna informazione, ma c'è un cavallo sul quale anch'io ho scommesso che amici del giro mi hanno dato vincente. Ecco, sono partiti. I cavalli sono partiti. Quelli della mia generazione, e non solo, anche quelli più grandi della mia generazione, sono molto affezionati a questo suono, a questa musica, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, e soprattutto a questa voce. È la voce di Alfred Hitchcock, o meglio, è la voce del doppiatore di Alfred Hitchcock, che oltre ai film straordinari che ha fatto e che mia mamma mi ha permesso di vedere, proprio perché mi diceva, i film di Hitchcock li possiamo vedere, perché fanno paura, ma non c'è niente di brutto da vedere, non c'è sangue, non ci sono sparatorie eccessive, eppure ti fa paura. E quasi per dimostrare questo teorema mi fece vedere prima La donna che visse due volte e poi tutti gli altri. Insomma, la mia preferita in assoluto è La finestra sul cortile, ma che mi sembrava davvero un pezzo della vita che abbiamo vissuto in quarantena, ciascuno nella propria casa a guardare fuori e osservare di là dalla propria finestra che cosa accadeva. Insomma, però questa è presa dall'intro di una serie che si chiamava Hitchcock presente, erano dei telefilm di fatto, tutti in bianco e nero, in cui che Hitchcock credo o li producesse, no? Non credo ci facesse la regia, però era, diciamo così, il curatore. Abbiamo aperto con Hitchcock e con questa atmosfera perché la puntata si intitola Strane Storie e saranno sì delle storie strane che hanno a che fare un pochettino con l'occultismo, un pochettino con realtà che non sono tangibili e che per le quali moltissimi sono scettici. Io sono tra quelli, devo dire, faccio fatica a credere all'ultraterreno, faccio fatica a credere a delle cose che non posso toccare. Insomma, però è indubbio che quantomeno nelle storie, in quelle strane, in quelle che raccontano di mondi che chissà, magari incrociamo senza accorgercene, quelli sicuramente meno sensibili come me ad esempio, ci sono probabilmente persone che hanno sensibilità maggiore per tutto ciò che è meno fisico e meno tangibile e magari le sentono. Io invece no, quella cosa non la sento, però provo comunque un fascino per quello che accadeva quando da ragazzini si giocava a fare le sedute spiritiche ad esempio. Ero letteralmente terrorizzato da quella roba lì, ero veramente terrorizzato. Però, come tutte le cose che ci terrorizzano, ne ero particolarmente attratto. Io ricordo ancora la volta in cui andai a vedere l'ultimo film dell'orrore che ho visto al cinema, si parla di 20 anni fa, era The Ring, e mi trovavo per un lavoro, all'epoca facevo l'attore, a Conegliano Veneto. Andai un pomeriggio, chiesi ai miei colleghi, andiamo a vedere questo film dell'orrore, nessuno venne, andai da solo in questo cinema di Conegliano Veneto di sabato pomeriggio ed era pieno di ragazzini, io non ero già più tanto un ragazzino, avrò avuto 25 anni, e mi ricordo che durante le scene di terrore, sapete, quelle in cui la musica sale e poi all'improvviso si ferma, poi boom, succede qualcosa, appare qualcuno dal nulla, ecco, io letteralmente urlavo sulla sedia e intorno a me si era creato questo gruppo di ragazzini che mi prendeva giustamente in giro perché insomma, urlare tipo ah, al cinema non si fa, a meno che tu abbia, non so, 7 anni, 12 anni, ma sicuramente non se ce n'hai 25 o 30. Eppure sono sempre stato attratto da queste storie. Quindi quando abbiamo ricevuto la storia che vi racconteremo, una storia abbastanza breve, ma la storia di Giovanni è carica di cose, Io mi sono detto: dobbiamo assolutamente raccontare questa storia. L'ideale sarebbe che fosse una storia notturna. Probabilmente questa storia piacerà moltissimo a quelli che ci ascoltano all'alba, anche se adesso a giugno all'alba alle 5 c'è già luce. Però tant'è, immaginate che sia sera, che sia buio, stiamo andando in un paesino dell'Appennino Ligure, si chiama Bussana Vecchia, dove succedono delle cose. E poi invece andremo negli Stati Uniti, dove una notte appare un saloon che sembrava fino a poco tempo prima non esistere. Benvenuti a Linee d'Ombra. Un episodio strano che è rimasto inspiegabile per me ebbe inizio dopo l'ultimo trasferimento che effettuavo dal mio studio di Milano al nuovo posto che avevo scelto, le rovine di Bussana Vecchia. Viaggiavo in compagnia del pittore napoletano De Pasquale. Avevo messo sulla mia piccola Fiat Topolino B, gialla e nera, tutto quello che potevo trasportare, visto che sapevo di non tornare più nella capitale lombarda. Ricordo che da Serravalle Scrivia non esisteva ancora il tratto autostradale Milano-Genova e bisognava affrontare una lunga discesa. I freni dell'utilitaria difettavano e nelle curve usavo il freno a mano. Il freddo si faceva sempre più pungente. La cappotta dell'auto si apriva ad ogni folata di vento. Allora invitai il mio compagno di viaggio a togliersi la cinghia dei pantaloni. Lui mi guardò storto, ma intuì che ci doveva essere un motivo plausibile e meno scandaloso di quello apparente. Dopo aver legato la striscia di cuoio alla sua gamba, la feci passare nella maniglia della cappotta, che restò chiusa definitivamente. Sempre pittore ho fatto io, cioè fare pittore perché ho lavorato 2 anni con Bruno Munari. Bruno Munari era un grande, per me è stato un maestro. Ero stato invitato a fare una mostra dei miei quadri al Casinò di Sanremo. E allora lì ho conosciuto un amico che mi ha detto: guarda, c'è un paese abbandonato, è bellissimo, devi vederlo. E allora sono andato e ho visto questo paese meraviglioso e abbandonato. Ho detto: io me ne vengo qua a stare, faccio qualcosa. Quindi e poi sono partito e comincia quella storia. Meno felice fu l'idea che ebbi quando, anchilosati per il freddo, la Topolino era priva di riscaldamento ma ben fornita di spifferi ed eravamo in pieno dicembre, suggerì di fasciarci con alcuni sacchi di plastica. All'arrivo a Genova, al primo semaforo, ci prese di mira l'equipaggio di una gazzella della polizia stradale. Del resto, non potevamo dargli torto. Sembravamo due mummie a zonzo. Furono benevoli e ci lasciarono andare. Oggi la benzina è rincarata! È l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità. Sulla Topolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei, ma sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Nel borgo, a Bussana Vecchia, ci attendevano due altri amici. Uno era lo scrittore siciliano Bonifacio, un uomo misterioso, esperto di occultismo, dalla stazza imponente, calvo e con un occhio di vetro. Il secondo era un pittore di cui ricordo ben poco e che sparì dopo la storia che vado a raccontare. Il nostro incontro aveva uno scopo, quello di dedicare una mostra dei nostri lavori alle culture dello spazio. Io credo, ma penso che sia solamente un fatto personale, e non siamo soli nello spazio, ci sono tanti sicuramente mondi che gravitano nell'universo e che possono avere della civiltà. Chissà quanti, perché l'universo è immenso, uno non ci pensa, ma il nostro mondo è niente di fronte a quello che ci può essere nello spazio. Abbiamo fatto questa, l'idea era stata mia, ho invitato questo amico che ora non c'è più, Bonifacio, era un personaggio stranissimo, e abbiamo creato questo sitting là per là dedicato alla cultura che può esserci nello spazio, ad altri che potevano essere come noi, che potrebbero essere come noi, che vivono nello spazio. È una nostra idea, ho avuto questa idea io. Così, in una notte senza data e senza ora, abbiamo esposto i nostri quadri e alcuni segni del Bonifacio all'interno della chiesa abbandonata del villaggio. La luna piena e il cielo stellato che si intravedevano attraverso il tetto mancante erano i nostri unici spettatori. Restammo a lungo sdraiati per terra. Quello che vi potrà sembrare strano è che ci siamo svegliati alle prime luci dell'alba, non nella chiesa, bensì all'interno di casa mia, vestiti e senza ricordare minimamente quando e come avevamo fatto a spostarci in quell'altro luogo. Ritornammo di corsa ai ruderi della matrice per vedere cosa ne era stato dei quadri. Tutto era intatto. Il vecchio esoterico siciliano volle tracciare un disegno sul muro a memoria di quello strano fatto. Io realizzai un manifesto. Ancora oggi il mistero di quella notte mi mette i brividi in corpo, solo a pensarlo. Storie che sono diverse dalle altre, questo lo sappiamo noi che le raccontiamo, lo sapete voi che le ascoltate. Questa puntata qua è completamente diversa dalle altre puntate, ma soprattutto questa storia, cioè la storia che ci ha raccontato Giovanni, che tra l'altro, e adesso lui ce lo racconterà meglio, è solo un pezzo di una storia molto più interessante, molto più ricca, che credo abbia a che fare di fatto con tutta la vita che ha vissuto Giovanni. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Giovanni, senti, partiamo dal racconto e poi so che la tua vita è stata meravigliosa, rocambolesca, lo è tuttora, quindi parliamo anche di quello. Allora, parliamo di quel giorno là. Tu innanzitutto sei un artista, partiamo da qua, giusto? Sei un pittore, sei uno scultore, esattamente come ti definisci, se ti definisci, Giovanni? Sì, un uomo d'arte, mi interessa. L'arte non è solamente nel quadro, l'arte nella vita deve essere assaporata, deve avere le giuste intuizioni per assimilarla. Non ha un nome, diciamo. Ok. Insomma, tu vivevi a Milano e a un certo punto, con un gruppo di altri artisti, ti trasferisci in questo borgo splendido che è mi pare sia vicino a Sanremo, dico bene, in Liguria. A 6 km da Sanremo. A 6 km. Sì. Che però era abbandonato, Bussana Vecchia. Sì, io facevo una mostra al Casinò nel 1959. Guarda, sono passati un po' d'anni. E una mostra al Casinò di Sanremo. E qualcuno mi ha detto che c'era un paese abbandonato lì vicino. Sì. Io sono andato a vederlo e così dopo alcuni anni, mentre ero prima a Parigi e poi a Milano, avevo deciso di lasciare tutto e quel racconto che, sai, ho cercato di ritornare definitivamente a Bussana Vecchia. Senti, e quanto sei rimasto a Bussana Vecchia? Ma soprattutto, io ho fatto delle ricerche, ci sono delle foto, lo consiglio a tutti gli ascoltatori. Mettete Bussana Vecchia su Google e trovate delle immagini sia del borgo sia delle residenze artistiche che, immagino, Giovanni, correggimi se sbaglio, sono cominciate con te e con voi, con quel gruppo di artisti là, giusto? Esatto, io perlomeno quelli che ho fatto venire io erano circa un centinaio di artisti da tutte le parti del mondo che hanno consentito a questa idea un po' matta, però un'idea che si poteva raggiungere. E io, se vuoi, poi ho una semplice frase del grande Divo Gori, se vuoi te la posso subito dire, è cortissima. Dimmela, certo, assolutamente. È una storia pazza e affascinante, come tutte le storie degli artisti. Vanni Giuffrè, oriundo siciliano ma cittadino del mondo, per una scelta programmatica cercava intorno al 1960 una sua isola incorrotta, come Paul Gauguin la sua Tahiti. trovo Bussana Vecchia. Questo l'ha scritto Divo Cori sul, mi pare che era l'Europeo. Senti, quanto ci sei rimasto a Bussana Vecchia alla fine, Giovanni? Una ventina d'anni, fino a quando ho trovato un'imbarcazione meravigliosa che ho comprato e poi me ne sono andato in giro per il mondo. No, aspetta, perché lo racconti come se a un certo punto ti fossi trasferito in un altro paese. Cioè, hai mollato, hai comprato una barca a vela e sei andato in giro per il mondo in barca a vela. Era maggiorenne Bussana Vecchia in quel tempo, io avevo... Quindi l'ho lasciato un po' andare per la sua strada, insomma. Esatto, che poi magari i figli illegittimi ne sono arrivati tanti, però io ho preferito, capisci, era una meraviglia, perché tu non so se conosci la vela, ma la barca vela la conosco, sì certo, è qualcosa di meraviglioso, il vento, la natura, il cielo. E quanto hai vissuto in barca vela poi? Io ho fatto un bel po', perché poi io di stanza stavo a Ibiza all'inizio, quando Ibiza era una meraviglia, veramente qualcosa di meraviglioso, poi è diventata turistica e non ne parliamo. E poi da lì avevo la... Mi piace il non ne parliamo, quando è diventata turistica non ne parliamo più. Esatto, e da lì poi adesso è invivibile e tutti i miei amici sono scappati via, e lì, da lì ho trovato un casale molto bello in un bosco di Ibiza a San Juan, esattamente all'interno, che ho comprato, e perché mi occupavo, facevo anche charter per sopravvivere, per poter mantenere, certo, la barca. Il charter, lo dico per chi non lo sapesse, è il noleggio della barca, insomma, vacanze in barca con uno skipper. Esatto. Adesso dove vivi, Giovanni? Dove stai? Io vivo su in Ebro, di un paese piccolo dove ho creato qualcosa di interessante. Vorrei che tu venissi, gli ascoltatori venissero. Mm-hmm. E ho creato il Museo degli Angeli, che è l'unico museo al mondo è dedicato agli angeli. Come si chiama il paese? In provincia di Messina, Montinebro, di parliamo della provincia di Messina. Sant'Angelo, in provincia di Messina, sì, esattamente. Senti, Giovanni, tu, a parte che hai la voce che sembra giovanissima, ma da quello che hai fatto, tu dovresti avere 150 anni, quanti ne hai? Ma guarda, ci sono due entità, una è quella fisica e l'altra è quella intima, spirituale. Io fisicamente ho 82. E spiritualmente quanti ne hai? E poi no, al contrario, 28. Giovanni, prima di salutarti, l'ultima cosa: hai capito cosa è successo quella notte quando a Bussana Vecchia vi siete addormentati in un posto e vi siete svegliati in un altro? Beh, guarda, è qualcosa di inspiegabile, e la gente può dire ma questi sono matti, è qualcosa di strano. Eravamo seduti là con i miei tre amici tranquilli a offrire le nostre opere alle culture dello spazio, abbiamo fatto un manifesto anche. Mm-hmm. E poi all'improvviso era notte, luna piena eccetera, e non è che ci siamo addormentati là, e a certo punto ci siamo trovati che ci alzavamo nella mia stanza, nel mio studio di Bussana Vecchia, ci alzavamo, chi era seduto per terra, chi era su un divano, chi era sulla poltrona, chi era sul letto. Eravamo tutti e quattro e ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ma che è successo? Che facciamo qua? Eravamo lì. Ma quanto tempo era passato? Non avete presente di quante, 6 minuti, ore? Io penso sono passate delle ore, no? Ma ti dico, è strana la cosa, perché nessuno, certo, di noi ricorda di essere ritornato a casa, nessuno dei quattro, non eravamo né drogati né bevuti né... Eravate sanissimi. Giovanni, senti, io davvero purtroppo devo salutarti, però se hai qualche altra storia mandacela quando vuoi, e se noi della redazione o qualche ascoltatore vuole passare da Sant'Angelo sui Monti Nebrodi in Sicilia, immagino che sia tuo ospite. Con perfetto, piacere. Ciao, grazie Vanni, grazie mille, un abbraccio, a presto. Kick me out, kick me out. Penso sempre che il bello delle storie di vita non sono solo, diciamo, la storia in sé, l'intreccio di quella storia, l'episodio che accade in quella storia, ma è la possibilità di conoscere delle persone che quella storia hanno raccontata, esattamente come è stato il caso di questo nostro ascoltatore, di Giovanni, che altrimenti, se non fosse stato perché io chiedevo storie, non l'avrei mai conosciuto, non ci avrei mai parlato e probabilmente voi non l'avreste nemmeno mai sentito al telefono. Insomma, grazie ancora per le sue storie, grazie per le vostre. Ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. E dopo la storia di una notte molto particolare e indimenticata, direi, in Liguria, qui in Italia, ora ci spostiamo negli Stati Uniti, sempre di notte, ma una notte in cui il protagonista è un saloon frequentato da strani avventori. State con noi. Il nord-ovest del Wisconsin, uno degli stati più a nord degli Stati Uniti, è una distesa di boschi puntellati da minuscoli villaggi, dove piccole comunità di persone ci vivono. I genitori di Anna, una giovane donna che vive a Minneapolis, vengono da queste zone e sin da bambina ci sono sempre tornati in estate per passarci le vacanze. Nonostante questo, però, sono considerati dei forestieri, perché in queste piccole comunità molto chiuse è difficile essere accettati. È così, sarà così, è sempre stato così. Questa storia proviene da un passato non troppo lontano, circa 20 anni fa. Anna sta guidando nella notte con un suo amico, si chiama Bob. Stanno tornando verso casa dopo una serata con altri amici. Guidano nel buio più buio che c'è, guidano per circa un'ora, quando a un tratto hanno bisogno di fermarsi. Vogliono riposare, magari mangiare un boccone e fare un salto in bagno. Ma non c'è nulla, non c'è una stazione di servizio, non ci sono paesi, non ci sono incroci, è solo nero e boschi. A un tratto lasciano la strada principale per prendere una via che sale sulla cima di una collina, dalla quale sperano di scorgere qualche luce in lontananza. E non appena ci arrivano, eccolo là. È un punto di luce rossa, è sotto di loro. È la scritta di un locale di cui si intravede giusto Roadhouse Saloon. Si vedono auto parcheggiate fuori e Bob ha un'esclamazione di gioia. Dice che ne ha sentito parlare di quel posto. Di recente c'è anche venuto un artista da chissà dove per dipingere un'intera parete dell'interno. Sono le 3 del mattino e quella è la loro unica speranza. Bob mette in moto e si dirige verso il locale. Parcheggiano ed entrano. Ci sono un po' di avventori seduti ai tavoli o al bancone molto lungo. C'è una pista da ballo e c'è un camino. Sopra il camino un grande dipinto. Rappresenta una scena del vecchio West. Intorno a Bob e ad Anna ci sono 3 donne che ridono e bevono qualcosa, 2 ragazzi che giocano a biliardo e un giovane uomo sorridente proprio dietro al bancone. È diverso dai bar di questa zona, dove di solito quando ci si entra gli avventori si girano dall'altra parte per evitare lo sguardo. Qui tutti sorridono ai 2 nuovi arrivati e hanno la sensazione che tutti li stiano aspettando. Anna va in bagno. Quando esce insieme a Bob si avvicinano a questo dipinto che tiene tutta la parete, quello sopra il camino. Da un vecchio jukebox parte l'alto volume Let's Twist Again di Chubby Checker, con la sua batteria arrembante. Un ragazzo si avvicina ad Anna e le chiede se vuole ballare, ma lei lo ringrazia e declina l'invito. A questo punto i 2 amici si avvicinano ancora di più al grande dipinto sul muro. Lo osservano. È rappresentato l'interno di un vecchio saloon, con la doppia porta battente, il grande bancone e gli avventori a riempirlo. I colori sono molto scuri e Bob si avvicina ulteriormente per osservare i dettagli. Poi si volta per guardarsi alle spalle. Poi di nuovo al dipinto. Poi di nuovo alle spalle. Anna gli chiede che cosa stia facendo e Bob risponde: «Ho la sensazione che i personaggi di questo quadro siano gli avventori che sono presenti qui questa notte». Round and round and up and down we go. Anna e Bob stanno osservando quel grande dipinto a parete all'interno del saloon in cui si sono fermati. Sono circa le 3 di notte e quando Bob comincia a sostenere che le persone nel quadro sono le stesse che sono lì, Anna comincia a preoccuparsi. Il bartender, le 3 ragazze che ridono al tavolo, i 2 tizi al bancone sono vestiti diversamente nel quadro, però sembrano proprio loro. Perfino il tizio che mette i soldi nel jukebox, nel dipinto è seduto al piano nel quadro. A questo punto riparte la musica dal jukebox con ancora una volta Let's Twist Again. Bob, divertito, dice ad Anna che le persone nel locale devono essere degli abitué del posto e l'artista, quello che ha dipinto il quadro, ha semplicemente voluto omaggiarli. I 2 amici si avvicinano al bancone e rivolgendosi al barman gli chiedono: «Siete voi quelli nel dipinto sul muro?» Il barman non risponde, ma continua a sorridere, con un'espressione quasi ebete, come se non avesse capito che cosa gli hanno chiesto. Anna allora si avvicina alle 3 ragazze, quelle al tavolo, e dice: «Ragazze, siete voi quelle del dipinto, giusto?» Ma loro la guardano senza cambiare espressione. Bob e Anna si accorgono solo adesso che nel locale gli unici a consumare un drink sono loro 2, mentre gli altri sembrano in attesa di qualcosa. È a questo punto che la situazione, che fino a quel momento era semplicemente strana, ora comincia a diventare preoccupante. Anna vuole andarsene, ma Bob insiste per rimanere ancora un po', vuole continuare ad osservare il dipinto. E in quel momento si sente la monetina cadere di nuovo nel jukebox e poi una canzone che parte, e la canzone è di nuovo Let's Twist Again, Like We Did Last Summer, come abbiamo fatto l'estate scorsa. Ad Anna viene la pelle d'oca, si volta e si accorge che tutti li stanno guardando. In quel momento Bob, che sta osservando il dipinto, dice: «Scusa un secondo, ma quelli chi sono?» Ci sono 2 figure disegnate nella parte destra del dipinto, dove nel disegno sta l'ingresso del locale, sono un uomo e una donna. Prima non c'erano. Anna dice a Bob che se ne vuole andare. Bob appoggia la birra sul tavolo, la prende per una mano e cominciano a camminare verso l'uscita mentre tutti gli avventori li guardano. Una volta fuori, salgono sull'auto, l'accendono e partono a razzo. Anna giura di essersi voltata per guardare il locale attraverso il lunotto dell'auto e di aver visto tutte le luci spegnersi in un colpo solo, come se il locale fosse vuoto e chiuso da sempre. Solo qualche giorno dopo, Anna e Bob decidono di tornare per vedere se era stata una loro allucinazione o chissà che. È mattina. Arrivano in auto, il locale è aperto e pieno di gente, ma non riconoscono nessuno degli avventori. Però il dipinto sul muro è sempre là. C'è una ragazza dietro al bancone. Anna le si avvicina e le chiede se conosce il barman che loro hanno visto sabato notte. Lei risponde che il locale è di suo padre, da anni, e ci lavorano solo lei e lui. Anna allora insiste: «Sabato notte, molto tardi, verso le 3, siamo entrati qui dentro, c'era un ragazzo dietro al bancone e gli avventori erano gli stessi raffigurati nel quadro». La ragazza dietro al banco la guarda stranita e le dice che ha chiuso lei il locale sabato sera. E quando l'ha chiuso era mezzanotte. Midnight were the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender. Saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know all my whole life through. I'll be remembering you whatever else I do. Where the stars and you. E grazie a Luca Micheli, che in chiusura di questa storia che abbiamo trovato in questo podcast che si chiama Spooked, che è preso da quelli di Snap Judgment, che è un altro podcast che ascoltiamo tantissimo. Questa storia si intitolava The Time Warp Saloon, cioè il saloon del tempo distorto. Sì, il saloon del tempo distorto. Ok, questa è più o meno la traduzione più o meno corretta di questa storia. Ma dicevo, grazie a Luca Micheli, che per chiudere questa storia sceglie un brano, che è un brano di Ray Nobles and His Orchestra, che si intitola Midnight, The Stars and You. Mezzanotte, le stelle e tu, che non è un brano qualunque, perché è il brano che chiude il film Shining, tratto dal romanzo di Stephen King. di Stanley Kubrick con Jack Nicholson. Insomma, ho citato tre nomi, sono tre giganti assoluti. Il film, se non l'avete visto, probabilmente perché non amate i film di paura, ma tant'è, questa è proprio la musica sul finale di Shining, che ovviamente non spoilererò, anche se io non credo nei spoiler, ma poi altrimenti gli ascoltatori giustamente se la prendono se non hanno visto il film. Andate a vedervi Shining e troverete questa musica in chiusura. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra i vostri diari dalla ripartenza. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Linee d'ombra. Questo periodo, quello passato e quello presente, lo stiamo vivendo tutti in maniera molto diversa, però grosso modo ciascuno di noi ha, per chi può, ha una casa dove è stato durante il lockdown e poi ha un lavoro, o lo sta cercando, o lo sta cercando di rimettere in piedi, o lo sta chiudendo per immaginare altre possibilità. Ma a proposito di diari di ripartenza, mi è arrivato qualche tempo fa un diario di Roberto. Roberto è un ascoltatore che ho già sentito diversi anni fa, perché io insomma ho una passione per il mare, per la barca vela, ed ero rimasto davvero intrappolato nella storia che mi aveva raccontato. Lui era un imprenditore in pensione, si era costruito da solo una barca a vela, per farci il giro del mondo. E qualche tempo fa mi ha mandato questa storia. Ciao Matteo, ti ascolto la mattina quando mi sveglio, cioè alle 5.30. Stamattina ti ho sentito chiedere questi diari. Allora eccomi qui con il mio diario. La cosa particolare di Roberto è che lui non vive in una casa, ma vive in una barca, al punto che quando mi ha mandato questa storia l'indirizzo che ha scritto ha nome e cognome, e invece dell'indirizzo di casa ha il numero del pontile e del marina dove si trova, in Liguria, nella fattispecie a Sanremo. Aspettavo giugno per partire con la mia barca e fare un po' di meridione, per poi fare la Sardegna meridionale, Baleari e andare a svernare tra Cartagena e Gibilterra. Posso farlo perché sono in pensione e libero da impegni, ma ho paura che staremo tutti quanti in porto. Vivo sulla barca che ho costruito 17 anni fa. I primi tempi li ho passati in Mediterraneo e nel 2013 sono andato per la prima volta ai Caraibi. Nel mese di marzo sono uscito tre volte per fare la spesa e qualche commissione. Questo inverno il vento mi ha danneggiato il tendalino e con la mia macchina da cucire me lo sono riparato. Tra poco comincerò a fare un po' di manutenzione al motore, filtri, olio, in modo che se ci liberano possa andare via. Ma il problema non è solo l'Italia. Bisogna vedere cosa succede in Spagna, dove i porti per la pandemia sono tutti chiusi. Dovrò fare anche qualche ritocco di pittura, ma avendo tempo mi dedico anche alla cucina. Sughi, peperonate, frittate, metto tutto sotto vuoto, ma poi tutto non superano i 15 giorni prima di essere mangiati. Dovessi fare un'altra traversata, questo è un sistema comodo per conservare il cibo. Alla mattina faccio un'abbondante colazione, ascolto Radio 24, un po' di musica, se mi prende il trip, sono un radio amatore, faccio qualche collegamento con la mia radio in onde corte. Nel pomeriggio prendo un po' il sole sul ponte della mia barca, se c'è. Prendo il tè alle 17, un po' di Facebook, cena e un film se mi interessa, se no di nuovo in rete. Alle 23, più o meno, vado a letto, dove leggo un po'. La libreria con i miei libri è l'unica cosa che mi manca, ma negli ultimi viaggi ho scoperto gli ebook e mi accontento. Sai come si dice? Di necessità virtù. I miei vicini intanto qui di barca sono diventati dei congiunti, sono tutte brave persone, gentili, non invadenti, poche uscite se non per la spesa. Abbiamo anche messo una transenna di traverso al pontile per scoraggiare i runner e i padroni dei cani. Insomma, ti mando questa storia, poi presto te ne manderò un'altra. Ciao, a presto, Roberto. You were not alone, dear loneliness, you forgot, but I remember this, so strange. I forgot that I

questa persona, probabilmente lentamente la voce di questa persona e chi lo sa, magari anche la sua condizione, diciamo, umana, la sua condizione rispetto al mondo scemerebbe, e tutto questo suo interesse per dire cose spesso senza senso e spesso volentieri dannose per le persone non avrebbero più diritto di cittadinanza e soprattutto non farebbero più male a nessuno. Quindi sono davvero d'accordo con lei, però temo che sia un appello che rispetto al mondo dei media verrebbe vanificato. Comunque grazie ancora, domani sentiremo Silvia, sentiremo la sua voce, la saluteremo, la ringrazieremo. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Luca Micheli, Anita Panizza, grazie a Paolino Corleoni. Io vi do appuntamento a domani, ora è il GR e poi domani alle 15 per l'ultima puntata della settimana di Linee d'Ombra, perché raccontare storie rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!